sentite a casa, eh? Dottor Marchetti, dottor De Stefani, è un po' la vostra casa, Cuore Denari. Loro si sono affezionati. Ormai sì. Andava a cena allora per cantare la serena. Benvenuto. Scusi. Ecco subito la tosse. Bacia la bocca sua. Ho fatto la battutona. Motore nel bel mezzo della via. Blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Paolo, secondo te il caffè fa alzare il colesterolo? Dipende. Il caffè normale lo fa abbassare, lo fa alzare, il caffè decaffeinato lo fa abbassare, oppure il contrario. No, tu lo fa alzare, non lo so. Mi sono arrivati i risultati delle analisi che ci hanno fatto fare. C'ho il colesterolo a 300. La cosa è smettere di mangiare porcate. Ho deciso, adesso mangio solo verdura scondita e vedrai che il colesterolo scende. E iniziamo a occuparci proprio del nostro colesterolo. Ha fama di essere uno dei grandi nemici della nostra salute, di quella del cuore in particolare. Ma la fama è immeritata, al punto, Deborah, che arrivo a dirti che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. È proprio così, perché sta a sentire. Tutte le nostre cellule sono fatte anche di colesterolo e il nostro cervello ne contiene quantità elevatissime, senza le quali non potrebbe neanche funzionare. La maggior parte dei nostri ormoni, vogliamo parlare di loro? Bene. La maggior parte dei nostri ormoni è proprio prodotta nell'organismo a partire dal colesterolo. Sembra che il colesterolo abbia anche la possibilità di contrastare la produzione di radicali liberi, nonché di controllare lo sviluppo di malattie degenerative. Quindi teniamolo da conto, non demonizziamolo, ma controlliamolo. Se voi lo avete già fatto, diteci i vostri valori. Parlo al plurale, naturalmente, perché come una rondine non fa primavera, potremmo dire che il valore del colesterolo totale da solo non basta. Quindi 800 24 00 24. Insomma, abbiamo scelto un bel protagonista per la prima parte di Cuore e Denari, allora io rilancio con un protagonista altrettanto interessante per la seconda parte, sarà il TFR, la nostra liquidazione, il trattamento di fine rapporto. Ne abbiamo parlato tanto in questi mesi, perché? Intanto perché, come per il colesterolo, lo produciamo un po' alla volta con i nostri anni di lavoro e ci sta molto a cuore costruire questa liquidazione finale che appunto prenderemo alla fine del nostro percorso professionale. Però presto molti saranno di fronte ad una scelta importante sulla sua destinazione. TFR, in busta paga sì o no? Dovrebbe infatti presto concretizzarsi la proposta del governo che ha pensato di permettere ai lavoratori dipendenti del settore privato di percepire mensilmente in busta paga più di 3 anni di trattamento di fine rapporto, e cioè mensilmente nel periodo che andrà dal 1 marzo di quest'anno, quindi insomma il tempo corre, una scadenza proprio dietro l'angolo, fino al 30 giugno del 2018. Come funzionerà questa procedura? Quali sono i pro e i contro? I fondi pensioni sono in assetto di guerra, li abbiamo ospitati anche qualche tempo fa e comunque torneremo a parlarne di nuovo oggi. Intanto, per le vostre domande, prenotatevi all'800 24 00 24, raccontateci cosa avete già pensato di fare. Sì, viaggiare, evitando le buche. E a quanto viaggia il vostro colesterolo? Quando l'avete controllato l'ultima volta? Avete casi in famiglia di colesterolo indomabile? Passatemi il termine. Chiamateci, il nostro numero verde a vostra disposizione, 800 24 00 24. Raccontateci anche le strategie che mettete in atto per tenerlo sotto controllo, per ridurlo un po'. Oggi è tornato a trovarci a grande richiesta, dovremmo dire. È vero. Anche mia, perché anche, lo sai che io vero. Apprezzo. Deborah ha un debole per lui, sì. Massimo Gualerzi, buongiorno dottor Gualerzi. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno soprattutto allora Deborah. Ecco, lo vedo già, sarà rosso come un peperone, cardiologo della Fondazione Dognocchi di Parma e all'Università di Parma, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica. Dottor Gualerzi, ci sono delle parole che solo a pronunciarle ci mettono un po' di ansia, soprattutto ci fanno sentire in colpa, il colesterolo è sicuramente una di queste. Ci sentiamo responsabile se i suoi valori aumentano, segno che abbiamo mangiato troppo troppe male e pensiamo subito che la salute del nostro cuore sia in pericolo. D'altronde la divulgazione medica in questi anni si è data molto da fare e si è sempre concentrata sul problema dell'aumento del colesterolo e quindi dell'ipercolesterolemia come una delle principali cause delle patologie cardiovascolari. Questo può essere vero, ma occorre fare qualche precisazione ed è quello che vorremmo fare con lei oggi. Nell'attesa dei numeri dei nostri ascoltatori, diamone qualcuno noi. Per quello totale è meglio non superare i 200. Quando abbiamo sentito il breve estratto di Camera Caffè, il protagonista diceva 300 e oltre. Ma per quello buono e per quello cattivo, dato che abbiamo sottolineato che il colesterolo si fa in tre, no? Per rendersi disponibile. Sì, diciamo che è importante, il più importante di tutti è quello cattivo, che non dovrebbe mai superare i 130. Poi anche lì, come vedremo, dipende molto dal rischio globale che una persona ha, perché tanto più il rischio di sviluppare delle malattie, quindi se il colesterolo si accompagna ad altri fattori di rischio, è appropriato anche tenerlo sotto i 130, sarebbe meglio avercelo addirittura sotto i 100. Mentre per quello buono, diciamo che più alto è, meglio è sicuramente, diciamo che dai 50 in su ci piace, quindi diciamo avercelo più in alto di 50 è importante perché esplica proprio il colesterolo buono un'azione di protezione, va a tamponare anche i difetti che possiamo avere, cioè il colesterolo totale se è un po' più alto, ma se abbiamo il colesterolo buono alto, ecco che il colesterolo buono va a tamponare un po' i difetti del colesterolo totale. 349-238-6666, stanno arrivando già numerosi messaggi che Deborah vi leggerà tra poco. Esatto, con curiosità guardavo soprattutto a chi ci segnala che ce l'ha molto basso, per cui se un certo valore è anche protettivo, hanno ragione gli ascoltatori che ce l'hanno molto, molto ridotto a preoccuparsi un pochino, no? Dottor Gualerzi, abbiamo infatti sottolineato tante volte che alti valori di colesterolo possono mettere un po' a rischio la salute, la nostra salute in generale, in modo particolare quella cardiovascolare. Ma non solo, ci sono delle ricerche molto interessanti che hanno messo ed evidenziato una relazione tra livelli di colesterolo e salute del cervello, ne parleremo tra poco, ma se è vero che non fa bene avere un colesterolo troppo alto, è vero che non fa bene anche averlo troppo basso, è così? È assolutamente vero, soprattutto ci sono delle fasi dell'età, dello sviluppo in cui avere il colesterolo alto, ad esempio nell'adolescenza, è fondamentale perché sono accettati appunto valori anche un po' più alti, fino a 250, perché il colesterolo in questa fase dello sviluppo particolare serve per creare tutte le membrane, per essere diciamo il motore dell'accrescimento cellulare e anche per creare gli ormoni. Questo è vero anche in più tarda età, quando un calo fisiologico degli ormoni, ecco, se si accompagna a colesterolo troppo basso, diciamo viene aggravata questa carenza ormonale e quindi abbiamo disturbi di vario genere, da diciamo i più forse sentiti, anche problemi sessuali, ma anche quelli cognitivi, quindi del comportamento, e anche quelli diciamo energetici, quindi del metabolismo. Quindi agire per abbassare troppo il colesterolo è un'azione non corretta. Dottor Gualerzi, abbiamo chiesto ai nostri amici di chiamare il nostro numero verde per dirci se li conoscono i valori del loro colesterolo, ma anche le strategie che mettono in atto per controllarlo. Di quali altre informazioni ha bisogno, dottor Gualerzi? Perché dal suo intervento abbiamo capito che, come sempre, la terapia, anche a livello dietetico, va personalizzata. Non siamo tutti uguali, ci sono degli altri fattori di rischio che concorrono e possono così far aumentare le probabilità che i valori di quel colesterolo siano più dannosi che in un'altra persona. Sì, diciamo che in realtà la persona va vista nell'insieme. Quindi, ad esempio, è accettabile avere il colesterolo anche un po' più alto in una persona che non ha fattore di rischio, in una persona che non ha altri fattori di rischio cardiovascolari, mentre addirittura siamo molto cattivi e severi, anche valori poco sopra la norma in una persona ad alto rischio, sono diciamo addirittura da trattare farmacologicamente. Quello che mi preme sottolineare è che circa una persona su 500 in Italia, ma poi così nel mondo, succede ha delle mutazioni negli diciamo geni e quindi negli enzimi che producono il colesterolo, e quindi se hanno parenti o familiari che hanno colesterolo alto tenderanno ad avercelo alto. Questo non vuole essere una giustificazione, quindi non è che se uno ha il colesterolo alto perché è geneticamente portato ad avercelo è accettabile, deve ineluttabilmente accettare questa condizione, però sostanzialmente non deve nemmeno sentirsi in colpa, perché nonostante quello che spesso può fare durante la vita, è difficile abbassare in queste condizioni il colesterolo se non attraverso degli alimenti corretti o addirittura in alcuni casi attraverso dei farmaci. 800 24 00 24, restate con noi, chiamateci, già lo state facendo, state inviando i valori del vostro colesterolo al 349 238 6666. I valori, perché è importante considerare i tre valori, ma dottor Gualerzi, ne bastano due per valutare se siamo in zona rischio. C'è una formula che, pur non avendo valore diagnostico, ci aiuta, è molto semplice, è il rapporto tra colesterolo totale e HDL. Se il risultato del rapporto non supera il valore di 4.5 e se i valori degli altri fattori di rischio cardiovascolare sono nella norma, possiamo stare tranquilli. È corretto, dottor Gualerzi? Sì, diciamo che quello che dicevamo prima, avere il colesterolo buono, cioè l'HDL alto, aiuta a ridurre il rischio a parità di colesterolo totale. Facciamo un esempio con dei numeri, ad esempio, sì. Se un individuo ha il colesterolo totale a 250, ma quello buono a 80, il suo indice di rischio sarà uguale più o meno attorno a 3. Sì. Mentre se un individuo sempre col colesterolo totale a 250 ha il colesterolo buono a 80, ha un rischio più o meno uguale a 5. Quindi il rapporto determina fra questi due tipi di colesterolo il rischio che la persona ha, e quindi non è importante solo la quantità di colesterolo totale, ma come abbiamo visto quello buono può andare a mitigare, a tamponare gli effetti dannosi e il rischio prospettivo che la persona può avere nel corso della vita. Allora, 800 24 00 24, il numero verde che ha composto Giancarlo da Palermo, che salutiamo, il nostro primo ascoltatore di oggi in diretta. Benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci racconti la sua situazione. Niente, io ho 52 anni e il mio minimo storico di colesterolo è stato 2,40 quando facevo le maratone, e quindi è sceso a 2,40. Mediamente, purtroppo, ce l'ho intorno ai 280-300. È genetico, nel senso che mio padre infartuato, mio nonno infartuato, io ancora non l'ho avuto, ma no, lo speriamo di no, Giancarlo. Intanto corra, si tenga in forma. No, correvo, ma non corro perché ho un'ernia e quindi non posso correre. Volevo sapere se ci sono metodi naturali, senza usare le statine, per cercare di abbassare leggermente questo valore. Giancarlo, faccio un attimo il dottor Gualerzi. Dottore, me lo permette? Mi trasformo in dottor. Sicuramente il dottor Gualerzi chiederà a Giancarlo se ha altri fattori di rischio. Li abbiamo nominati tante volte nel corso di questa puntata e anche di puntate precedenti. Dottor Gualerzi, pressione, girovita? Sì, ad esempio la glicemia. La glicemia. Anche il rapporto tra la glicemia e l'insulina, che è un rapporto che oggi va per la maggiore, perché si può avere la glicemia normale a spese di una più alta insulina, anche questo è un fattore di rischio. Però un consiglio molto banale, o comunque una valutazione molto banale, che però in un soggetto come Giancarlo andrebbe fatta, è una valutazione di un esame molto semplice, che è la valutazione delle carotidi, quindi dei quelli che vengono chiamati tronchi sovraortici, che sono quelle arterie che stanno nel collo, sì, che sono molto facili da vedere. E quando ci arrabbiamo, mamma mia, come escono quelle fuori. Quelle sono le vene. Che sono le giugulari, però in realtà sono lì vicino. Sono lì vicine, sono semplici da vedere. E la visione di queste arterie ci permette di capire la salute un pochino generale delle nostre arterie, sono facili da esaminare, quindi sono quelle che vengono prese un po' come campionamento generale. Ecco che se anche un colesterolo di 240 si accompagna, diciamo si associa con delle arterie apparentemente comunque proprio pulite, sane, senza nessun segno di infiammazione, ecco che potrebbe essere anche quasi accettabile questo valore. Mentre nel caso, e ammesso che non abbia altri fattori di rischio, ci siano già delle alterazioni strutturali, non necessariamente una placca, ma noi oggi riusciamo ad andare a vedere anche qualche alterazione proprio minima, un po' di inspessimento della parete, qualche segno di infiammazione, ecco che il 240 del signore diventerebbe già passibile di trattamento. Un altro punto che volevo dire, che accomuna forse il colesterolo al TFR, non sono un esperto di TFR, però è quello che ho appena detto. Sono due fonti a cui è difficile attingere, almeno fino a qualche tempo fa, al TFR credo che fosse impossibile prima del pensionamento. È difficile attingere anche al colesterolo, e l'espressione che ha detto il signore è: correvo, faccio le maratone, avevo il colesterolo alto. Ecco, è difficile attingere perché noi quando facciamo il movimento o esplichiamo determinate azioni durante la giornata non è detto, ed è difficile anzi andare ad attingere il colesterolo come fonte energetica. Quindi non è valido l'assioma di dire ok, faccio molto sport e quindi avrò il colesterolo basso. Questo non è un assioma da prendere. Lo sport non lo smuove, insomma. Poco. A meno che, ecco, ci siano a soglie molto elevate, vero dottor Gualerzi? Bisogna essere proprio sportivi, professionisti. Beh, noi oggi abbiamo identificato qualche metodologia un pochino più specifica che anche una persona non troppo sportiva può avere l'ambizione di abbassare il colesterolo, intervallando fasi ad attività aerobica intensi a esercizi, diciamo, di tonificazione muscolare, quelli che in termine tecnico sono chiamati circuiti, quindi intervallare, non so, 3-4 minuti di attività aerobica ad alta intensità con 4-5 minuti di attività, diciamo, di tonificazione muscolare, ripeterlo tante volte in un circuito, e questo è stato dimostrato impattare più di qualsiasi altro tipo di attività sulla colesterolemia. Quindi per l'attività fisica che smuove, tra virgolette, il nostro colesterolo, può essere questo, solo questo dei circuiti, chiamiamoli così, quindi l'alternanza. È uno di quelli che è stato dimostrato ridurre di più il colesterolo totale e aumentare il colesterolo buono, cioè quello HDL. Deborah mi sta dicendo che l'ha fatto sabato mattina, senza saperlo, ho dato una bella botta al mio colesterolo qualora fosse stato su valori bene, ottimo. Siccome non li faccio proprio molto volentieri i circuiti, dottor Qualerzi, però qualche volta i nostri istruttori ce li chiedono, giustamente, almeno so che c'è questo effetto benevolo sulla mia salute. Quante cose si imparano a cuore denari, dottor Qualerzi, ma vogliamo rispondere anche a Gianni da Udine, che ci fa una bella domanda. Sì. Che avevamo messo in scaletta, ma aggiungiamola, anticipiamo. Che differenza c'è tra una persona con colesterolo alto e trigliceridi nella norma e una persona, come Gianni, che ha il colesterolo ampiamente nella norma e i trigliceridi leggermente oltre la soglia? Allora, a differenza di quello che si può immaginare, o comunque ormai l'abbiamo detto, quindi diciamo che credo che tutti lo immaginino, il colesterolo è poco modificabile con l'alimentazione, mentre i trigliceridi sentono tantissimo della cattiva alimentazione. Sì. Quindi possiamo dire che l'80% del colesterolo circolante lo produciamo, solamente il 20% lo ingurgitiamo con i cibi sbagliati, vedremo poi quali sono e cosa evitare o cosa prendere per abbassare il colesterolo, mentre i trigliceridi risentono molto di più, diciamo, dell'alimentazione. Anche un'alimentazione sbagliata fatta il giorno prima di aver fatto gli esami. Quindi il consiglio... Che primo, orecchie per intendere, intenda. Allora, non è giusto stare a dieta per fare gli esami, questo è un modo di autoingannarci. Però neanche abbuffarsi. Però ecco, stare attenti, perché soprattutto i trigliceridi risentono, hanno un metabolismo molto rapido, e quindi anche aver mangiato in modo eccessivo il giorno prima degli esami può influenzare i trigliceridi. Diciamo che una cosa, e questa qua è una nota magari, visto che diciamo di mangiare molta frutta e molta verdura, tenere da conto che la frutta aumenta molti trigliceridi, quindi le persone pensano di mangiare sano quando mangiano tanta frutta, in realtà se mangiano tanta frutta i trigliceridi possono salire, quindi stare attenti a queste cose. Ecco, state attenti, 800 24 0024 e raccontateci di voi, tra poco andremo a Marchina da Trento. Tra l'altro mi stavo chiedendo, leggendo le anticipazioni della domanda della nostra ascoltatrice, sono più le donne o le uomini ad avere, come dire, una tendenza al colesterolo alto, dottor Qualerzi? Allora, sono più le donne dal punto di vista genetico, sono più gli uomini dal punto di vista alimentare. Quindi anche se ormai le tendenze si stanno cambiando e bisognerebbe fare, diciamo, meta-analisi di popolazione quotidianamente, perché gli usi e i costumi stanno, come sapete meglio di me, cambiando rapidamente, però le donne risentono più del fattore genetico, mentre gli uomini risentono più del fattore ambientale, quindi gli uomini sono un po' meno attenti a tavola, anche se abbiamo visto che questo impatta di meno, le donne sono un po' più penalizzate dalla genetica. Perché anche se la dieta impatta di meno, ci sono degli alimenti che sono in grado di aiutarci a tenere il colesterolo un pochino più basso. Ne parleremo dopo i mercati, abbiamo tempo però di sentire Marchina. Sì, buongiorno, sì, Marchina, benvenuta. Allora, io volevo chiedere, dal momento che appunto io seguo una dieta praticamente vegana, e stando sempre attenta a moltissime cose, comunque il mio colesterolo è sempre sui 200, quello cattivo. E quindi, cioè, volevo capire come mai e cosa posso fare per tenerlo a bada. Allora, dottor Qualerzi, la risposta è lunga e articolata, perché vogliamo dare ai nostri ascoltatori anche un po' un elenco di super alimenti, metto il super tra virgolette, che possono aiutarci, soprattutto la super salute. La super salute del dottor Qualerzi, un libro che ci piace molto. Quindi chiediamo a Marchine, a tutti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo: io uso il riso rosso, io uso lo yogurt, io mangio i cereali integrali, io mangio i formaggi, devo toglierli, di restare con noi e di trasferirsi sedersi con noi in fondo a tavola con il dottor Gualerzi. C'è un ascoltatore che ha scritto che solo togliendo le fette biscottate dalla colazione ha già notato un effetto sui valori del colesterolo. Chissà. Sarà vero? Ma... Cuore e denari. Le sue analisi, per favore, grazie. Molto gentile. Bellissime. Stupende. Azotemia magnifica. Glicemia eccezionale. Colesterolo delicatissimo. Trigliceridi fantastici. Urine meravigliose. Complimenti. Grazie. Prego. Meglio, sì, meglio tornare, meglio 3 anni da leoni per continuare con questa immagine che ci ha regalato il grande Verdone. Insomma, veramente lui con tutti i suoi film ci regala sempre delle chicche che vanno bene per ogni puntata. Lo prendiamo sempre molto volentieri. Esatto. Insomma, 3 anni con uno stipendio un po' più ricco a fine mese, oppure pensare da brave pecorelle, o meglio formichine, a quello che potrà succedere nei... ci auguriamo numerosissimi anni che seguiranno la fine della nostra attività lavorativa, la nostra pensione. Allora oggi parliamo del TFR in busta paga. Entro poche settimane probabilmente le nostre aziende ci chiederanno cosa vogliamo fare. Vogliamo che si continui a versare il fondo pensione scelto qualche tempo fa, oppure vogliamo questa liquidità in busta paga? È un dilemma con cui molti italiani inizieranno presto a fare i conti. Cosa cambia per la nostra liquidazione? Ne parleremo nella pagina di Denari a partire dalle 11.45. La domanda per voi ascoltatori oggi non poteva essere più facile. TFR in busta paga, sì o no? Voi cosa farete? Avete già deciso? In caso contrario, quali sono i dubbi che ancora vi impediscono di fare una scelta? Cominciate a raccontarcelo all'800 24 00 24. Mi chiamo Ruben Nosave, io sono un professore argentino, io vengo da Buenos Aires, io insegno all'università in Buenos Aires a una cattedra di sport e io vado dicendo da molto tempo al mio paese di quello che io penso una missione che si deve avere il coraggio di dire, una voce forte e chiara, scientifica, che si alza e dice: il sport fa male. Tutti vuole stare in forma, andare in palestra, se deve avere il coraggio di dire: il sport fa malissimo. Il sport fa male fisicamente, il sport fa male alla gamba, fa male alla schiena, fa male al cuore, fa male al polmone. Non c'è una parte del corpo che il sport non ti fa male. Non fa male, ma per il colesterolo, diciamo la verità, fa poco. Ce lo ha detto anche il dottor Gualerzi, che è in linea con noi. Buongiorno e ribuongiorno, dottor Gualerzi. Ribuongiorno a tutti voi. Allora, naturalmente noi dobbiamo continuare o iniziare a fare attività sportiva per aumentare la massa magra, riattivare il metabolismo, tenere sotto controllo la pressione, migliorare il nostro umore, ma per il colesterolo è inutile ammazzarsi di fatica, oppure a grande richiesta i nostri ascoltatori ci chiedono di rispiegare i circuiti. Questo è un modo per chi va in palestra di lavorare, di faticare, ma almeno di vedere risultati sul colesterolo. Dottor Gualerzi, la formula è? Formula sarebbe quella di fare un'attività aerobica di pochi minuti, dai 3 ai 5 minuti massimo, ad alta intensità, quindi medio-alta intensità, ad esempio camminare velocemente in salita o correre sul tappeto a una velocità sopra sicuramente i 5 km all'ora con una pendenza di 10%, oppure pedalare attorno ai 130 watt di resistenza in cicletta a 80 pedalate al minuto, quindi per 3-4 minuti, e intervallare questo con una serie di esercizi per 5 minuti di tonificazione muscolare, cambiando distretto muscolare ogni volta e ripetere questo giro per 4-5 volte fino a che non si sono allenati tutti i gruppi muscolari, quindi 3 minuti di attività aerobica, 4-5 minuti di attività muscolare, ripeterli per 4-5 volte, quindi finire un allenamento dove si sono fatti questi circuiti molto utili per abbassare il colesterolo e non solo, devo dire. Chi fa sport rischia circa dal 30 al 50% in meno di avere malattie cardiovascolari. Questo va detto al di là del fatto che lo sport fa veramente male ai muscoli perché non è allenato. E tra l'altro noi stiamo conducendo una ricerca proprio qua all'Università di Parma sul seguire pazienti che hanno avuto già problemi cardiovascolari, quindi non solamente chi non li ha avuti a beneficio, ma stiamo appunto raccogliendo questi dati di 10 anni di esperienza che abbiamo in ambito riabilitativo e vediamo che chi ha continuato a fare attività fisica dopo un evento cardiovascolare come un infarto, come un problema al cuore, ecco che ha una probabilità di avere e di morire molto ridotta e di avere nuovi eventi molto ridotta, quindi lo sport fa assolutamente bene. 800 24 00 24 ci ha chiamato Maria Caterina da Milano. Buongiorno Maria Caterina, benvenuta. Buongiorno, grazie. È molto interessante tutto, anche perché io ho scoperto da poco di avere il colesterolo alto e mi sono data al jogging, parteciperò alla Stramilano proprio per battere il colesterolo, quindi interessantissimo quello che sento. Ma una domandona, io non ho né la tiroide né le paratiroidi e sono costretta a prendere terapia sostitutiva, quindi vitamina D, calcio e tiroide. Ho letto da qualche parte che c'è un nesso fra colesterolemia, cioè col colesterolo alto, e la mancanza di vitamina D. C'è speranza? Che succede? Posso sapere qualcosa dal dottore? Grazie. Grazie a lei per la bella domanda, che darà modo anche al dottor Gualerzi di spiegarci se c'è una relazione, dopo aver naturalmente risposto alla nostra ascoltatrice, tra il funzionamento della tiroide e livelli alti di colesterolo. Dottor Gualerzi. Allora, sicuramente la tiroide che funziona poco fa aumentare i livelli circolanti di colesterolo. La signora sta facendo una terapia sostitutiva, quindi ammesso che sia fatta in modo appropriato, dal punto di vista tiroideo chi prende la pillola piuttosto che produrla autonomamente non dovrebbe avere problemi. Mentre sulla vitamina D ci sono molte evidenze sul fatto che bassi valori di vitamina D, e ahimè, soprattutto nel nord Italia, ma diciamo in tutta l'Italia abbiamo tutti dei bassi valori di vitamina D, bassi valori di vitamina D aumentano lo stress ossidativo e quindi riducono il colesterolo buono a favore del colesterolo cattivo. Ecco che oggi sta diventando un po' uso comune, comunque costume, diciamo comune, dei medici che si occupano di prevenzione, far integrare almeno nei mesi invernali non solo la signora Maria Caterina, che non ha le paratiroidi, ma anche tutte le persone che purtroppo stanno poco, e ricordiamo che la vitamina D viene prodotta solo rimanendo al sole, quindi che stanno poco al sole, fare una supplementazione quotidiana con un po' di vitamina D. Alti valori di vitamina D sono stati dimostrati essere correlati con un più basso rischio cardiovascolare. Quindi la vitamina D è una vitamina amica della nostra salute, ma dottor Gualerzi, noi abbiamo ancora in sospeso l'intervento di Marchina. Marchina è vegana e nonostante questo, quindi elimina dalla sua alimentazione gli alimenti che sono solitamente incriminati, non ha nessun beneficio, il suo colesterolo rimane alto. Che cosa si può fare? Questa è un'occasione anche per iniziare a suggerire ai nostri ascoltatori alcuni degli alimenti che possono aiutare naturalmente a fare pace col colesterolo. Io non so se la radioascoltatrice si è sbagliata, diceva 200 mg decilitro di colesterolo cattivo, quindi un colesterolo cattivo, cioè l'LDL, molto alto. Sì. Quindi in questi casi devo dire veramente che un colesterolo LDL così alto necessita probabilmente di terapie farmacologiche. Però a tavola, se è vero che da una parte, anche se sbagliamo, è difficile che salga più di tanto, se facciamo bene possiamo farlo scendere. Quindi ci sono una serie di alimenti che possiamo utilizzare tutti i giorni che aiutano ad abbassare il colesterolo, dalla colazione fino alla cena. Diciamo che abbiamo in primis i miei tanto amati cereali integrali che grazie alle loro fibre riducono l'assorbimento di colesterolo. In primis metterei l'avena integrale e il riso rosso, da cui tra l'altro il riso rosso si estraggono poi sostanze che vengono utilizzate proprio per creare i farmaci che abbassano il colesterolo. Sì. Tengo a dire una cosa, perché molte persone pensano di non aver bisogno dei prodotti, ad esempio come i fitosteroli che vengono addizionati negli yogurt, che invece sono molto utili, dicono tanto non mangio il colesterolo, quindi è inutile che prenda delle sostanze che inibiscono l'assorbimento perché non ne ho. In realtà il 50% del colesterolo che assorbiamo nell'intestino è secreto dal nostro organismo, cioè lo produciamo, lo buttiamo nell'intestino e lo riassorbiamo. Quindi tutti abbiamo bisogno di una componente o di alimenti che impediscono l'assorbimento. L'altro aspetto, diciamo che sono alcuni prodotti che stagionalmente possiamo trovare piuttosto che no, che sono ad esempio un alimento che c'è sempre, l'olio d'oliva, che noi fortunatamente in Italia abbiamo, e quindi diciamo l'olio d'oliva è ricco di omega 9, riduce sostanzialmente o comunque migliora il metabolismo del grasso e del colesterolo, come gli omega 6 che troviamo principalmente nella frutta secca. 40 grammi di frutta secca sparsi durante la giornata, mandorle, noci, e sostanzialmente hanno un'azione ipocolesterolemizzante. Anche pistacchi, vero? Anche i pistacchi, tra l'altro. Io vado pazza per i pistacchi. Ecco, il problema di questi. Sì, gli 40 grammi. No. Gli anacardi no. Gli anacardi no, dottore, componente... che notizia tragica mi dà. 40 grammi e poi senza sale. Uno ne mangi con 40 grammi, sono giganteschi. È quello. Perché il problema vero della frutta secca è che rapidamente superiamo la dose consigliata, andando verso la dose TOS. classica. Ci va. Infatti ecco, io non li posso comprare, dottore, perché sennò sto sempre lì a sgranocchiare. Non viene a mangiarli a casa mia, così io li devo comprare due volte. Ma, dottor Gualerzi, quindi 40 grammi di semi oleosi di frutta secca. Sì, possiamo poi fare uso quando soprattutto è stagione del pomodoro, ricordiamo che il licopene, tanto famoso, ha anche un'azione non solo antiossidante ma anche migliora il metabolismo del colesterolo. Un frutto che troviamo ormai tutte le stagioni, ma comunque è utile mangiare soprattutto con la buccia e la mela, perché quella parte biancastra che c'è tra la buccia e la polpa, che si viene chiamata in termine tecnico pectina, che è una fibra molto solubile, diciamo, ha le capacità di migliorare il metabolismo del colesterolo, quindi la mela con la buccia. Una mela al giorno toglie il medico di torno, sì, soprattutto il colesterolo. No, però, Dottor, il dottor Gualerzi ha preparato per noi cosa? Un menù giornaliero che noi riproponiamo naturalmente, dato che adesso dobbiamo salutare il dottor Gualerzi, che lui scappa, ma noi anche, perché andiamo ad occuparci di TFR. Lo trovate a partire dalle 12.45 sulla pagina di Cuore Denari, quindi una giornata tipo per tenere a bada il colesterolo. Dottor Gualerzi, grazie per essere stato con noi. Buona grazie giornata, dottore. Buona giornata. Ricordiamo il suo Super Salute, che è molto bello. Assolutamente, con piacere. Un libro dove troviamo delle indicazioni molto utili per prenderci cura di noi. Bene, e adesso prendiamoci un po' cura della nostra busta paga, perché entro un paio di mesi potrebbero succedere delle novità tra poco. Cuore e denari. TFR Busta Paga è una possibilità, è una cosa che divide gli italiani, esatto. Secondo i sondaggi sono 50-50, esatto. Perché qui mi piacerebbe domandarlo a voi e dire: preferite avere i soldi qui dove le signore si sbracciano? Lasceremo al cittadino la libertà di fare come gli pare. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage è impunita. Puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. E allora 800 24 00 24, per dirci TFR in busta paga, sì o no? Apriamo così la nostra pagina di denari con questa domanda secca: distinto voi cosa fareste? Anche se in realtà più che distinto forse ormai siete in grado di dare una risposta ragionata, perché è un tema che stiamo commentando da qualche mese, da molte settimane. Preferite lo stipendio un po' più sostanzioso, sottraendo 3 anni alla vostra liquidazione? Se ne è parlato molto ultimamente in termini anche molto accesi. Abbiamo fatto già delle puntate con Nicoletta sul tema, si sono subito formati gli schieramenti di favorevoli e contrari, ma c'è anche il partito degli indecisi. Intanto il momento della scelta si avvicina. Per i periodi di paga, vedi che faccio il raspino come ieri ho in gola, esatto. Devi andare a sentire in archivio la puntata sulla tosse. Ma non ho la tosse, solamente il raspino della gola. Per i periodi di paga fra il 1 marzo di quest'anno e il 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, potranno richiedere di percepire la quota maturanda del TFR, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile. Insomma, 1 marzo è dopodomani, tra l'altro, è arrivato, arriverà con la primavera e faremo le trasmissioni sulle allergie, tutti i malanni di stagione, e io farò questa. Quindi cerchiamo di capire per decidere bene. Brava, ci aiutano a capire allora qualcosa di più Vitaliano D'Angerio, Il Sole 24 Ore plus 24. Ciao Vitaliano, bentornato. Ciao Deborah, buongiorno a tutti. Autore già di un monitoraggio molto attento da settimane sull'argomento. Una nuova pagina è stata pubblicata proprio sabato, si fa un po' il punto della situazione su quei fondi pensione che rischierebbero di essere un po' più penalizzati da un'eventuale scelta di sospensione dei versamenti da parte dei lavoratori che aderiscono. Con noi stamattina è tornato anche Michele Tronconi, presidente di Asso Fondi Pensione. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Benvenuto. Grazie di avermi invitato. Parlo di un ritorno perché lo abbiamo già ospitato qualche settimana fa, quando insieme a tutta la categoria del settore hanno organizzato questi stati generali a Roma, proprio per richiamare un po' il governo e sollecitarlo ad un ripensamento su questa decisione, che non è arrivato nel frattempo. Poi vedremo insomma che cosa è successo. Anzi, dice l'italiano. Anzi, vanno avanti. Non è un premier questo che torna tanto indietro nelle sue decisioni, per cui hai voglia di commentare qua a Cuore Denari, però noi possiamo sempre dire la nostra. Allora Vitaliano, comincio subito con te, poi naturalmente sentiremo anche cosa hanno in mente di fare i nostri ascoltatori lavoratori, ce lo racconteranno all'800 24 00 24. si dovrebbe partire teoricamente il 1 marzo sì, di quest'anno. Sì. Quindi diciamo che da marzo dovrebbe già esserci questa quota di TFR accreditata sul nostro conto corrente, quindi già come voce nella busta paga, però siamo già pronti per far partire il tutto? Allora, il 1 marzo parte la scelta, cioè dal 1 marzo a fine giugno i lavoratori dovranno scegliere se indirizzare TFR in busta paga. Quindi non arriva, perché ho ipotizzato che già una richiesta da parte dell'azienda arrivasse entro la fine di questo mese per accreditare già un importo a marzo, invece no, da marzo a giugno. C'è questa scelta, che è una scelta tra l'altro irreversibile per 3 anni, bravo. Questo è molto importante, ma le tecnicalità, il modo in cui deve avvenire questa scelta ancora non è chiaro, mi sono informato proprio stamattina per capire un po' con i principali cosa venirci fondi a raccontare bisogna ma, fare bella figura ma non c'è ancora una chiarezza. Ovviamente immagino che la cosa più semplice è un po' informarsi col proprio ufficio del personale, certo, in azienda, no? Prima cosa, se sa tra l'altro anche l'ufficio, sì, del personale, che cosa fare, perché probabilmente stanno già anche studiando che tipo di modulistica presentare ai propri lavoratori, quindi immagino poi ci saranno delle circolari, visto che è una questione fiscale anche dall'Agenzia delle Entrate, visto che c'è la vigilanza sui fondi pensioni, ci sarà il Ministero del Lavoro e il Ministero del Tesoro che dovranno dire la loro, quindi ci sono più enti, ministeri che dovranno appunto inviare circolari a chi di dovere e chiarire le modalità tecniche. Prevedo tante puntate sull'argomento da marzo, Nicoletta. Vedo che ci stiamo già sfregando le manine. Esatto, come abbiamo fatto, Vitaliano lo ricorderà, nel famoso tra il 2006-2007, quando invece questo TFR doveva essere devoluto ai fondi pensioni, mesi di trasmissioni, e adesso dobbiamo fare un po' una marcia indietro su questo. E infatti c'è proprio, come direbbe Renzi, un cambio diverso, no? Perché 10 anni fa si diceva bisogna versare il TFR nei fondi pensioni perché è il pilastro della pensione complementare. Adesso abbiamo proprio cambiato, nel senso che il TFR non va più versato, ma adesso spieghiamo il motivo per cui forse è meglio tenerlo nei fondi pensioni. Michele Tronconi, l'ultima volta che l'abbiamo ospitata, lo ricordavo prima, è stato il 12 dicembre in occasione dei vostri stati generali convocati a Roma per dire la vostra, perché affinché Asso Fondi Pensione potesse dire la sua su questa decisione del governo sulla possibilità anche di un aumento della tassazione sui fondi pensione, due interventi che insieme costituirebbero un disincentivo importante alla scelta di quello che Vitaliano ha ricordato è battezzato come il secondo pilastro della previdenza italiana. Quella vostra mobilitazione aveva sortito qualche effetto? Tronconi. Sì, mi sente? Sì. Buongiorno. No. Possiamo ritenere un primo risultato il fatto che il governo abbia poi deciso di offrire un credito d'imposta plafonato a 80 milioni di euro per anno sugli investimenti da parte degli investitori istituzionali come i fondi pensioni e negoziali, sugli investimenti nell'economia reale, soprattutto a medio-lungo termine. Quali siano esattamente questi investimenti è ancora oggetto di precisazione da parte del MEF, quindi uscirà un decreto. Purtroppo non abbiamo invece ottenuto né l'auspicato passo indietro sul prelievo fiscale sui rendimenti. Noi ci aspettavamo una via di mezzo tra l'11,50 e il 20, cioè tra il 15 e il 17%, ma soprattutto non è stata fatta una marcia indietro sulla retroattività di questo intervento di aumento del prelievo sui rendimenti, che a questo punto va calcolato dall'inizio del 2014. Come debba essere calcolato è una cosa ancora oggetto di definizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, però ricordo che tutte le volte che si va a stabilire con una legge un comportamento anteriore alla legge si contravviene l'articolo 73,3 della Corte della nostra Costituzione, e senz'altro non si aiuta a ricostruire quel clima di fiducia tra i cittadini e lo Stato. Quindi questo cambio di vento di cui si parlava prima, 10 anni fa si parlava importante sostenere il secondo pilastro previdenziale, adesso sembra non più così importante, l'importante è sostenere i consumi immediati, un po' vi lascia un po' come dire perplessi, ma Tronconi, avremo modo di ribadire queste vostre posizioni dopo il giornale radio, a tra poco. Cuore e denari. Noi potremo dal 1 gennaio mettere il trattamento di fine rapporto non alla fine, ma mensilmente in busta paga. È una proposta che viene da una parte del sindacato. È complicata, perché c'è una parte degli italiani che dice: ora, io mi sento più tranquillo ad averli alla fine, perché magari poi si sposa mia figlia. Tutto vero, ci sono anche gli strumenti di previdenza integrativa. Italia sì, Italia no, Italia pum, la strage è impunita. Puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. TFR in busta paga, sì o no? Il tema di Denari della puntata di oggi, noi ce lo stiamo chiedendo e ve lo stiamo anche chiedendo con un'attenzione particolare all'impatto che questa scelta avrebbe su un'altra decisione importante, quella di costruirsi una pensione integrativa. Sappiamo quanto è importante il TFR come mattone portante della previdenza complementare. Il Renzi che abbiamo sentito era ospite da Fabio Fazio a novembre, aveva detto il TFR, se i lavoratori decideranno di averlo, lo avranno in busta paga da gennaio. Non è così banale questa operazione, ce lo stava spiegando poco fa il collega del Sole 24 Ore Vitaliano D'Angerio, e in realtà il meccanismo si è messo in moto, ma abbiamo capito che da marzo di quest'anno in realtà ai lavoratori dipendenti del settore privato verrà chiesto: lo vuoi in busta paga o meno? Avranno 3 mesi di tempo più o meno per dire sì o no all'azienda, perché non gli si può dare ovviamente solo 2 settimane, ed eventualmente il primo accredito lo avremo da luglio? Immagino di sì, perché se a giugno scade appunto questo periodo, da luglio ci sarà questo accredito. E per 3 anni questa scelta sarà irreversibile del TFR in busta paga. Aspetto molto importante, per cui se direte sì, voglio che tutto il TFR che sto maturando questo mese, non lo voglio più dirottare al fondo pensione, ma c'era anche chi non lo stava dirottando, veniva mantenuto in azienda, se lo vuoi in busta paga non si potrà più fare la scelta contraria, cioè non è per 3 anni, quindi non è che se a dicembre abbiamo deciso, i soldi che abbiamo preso ci bastano, voglio ricominciare a come dire dirottarli nel fondo pensione, per esempio, non si potrà fare. No. Beh, anche lì potrebbe essere un punto, Michele Tronconi, presidente di Assofondi Pensione, su cui lottare, perché la scelta è irreversibile. A voi farebbe anche comodo che magari un lavoratore riprendesse a versare. Sono d'accordo, ma la questione, la domanda la deve fare a qualcun altro, a chi ha pensato a questa. No, magari un'altra battaglietta da fare, visto, insomma, ve ne sto suggerendo qualcuno. Ma infatti Assofondi Pensione, poi lo dirà anche il presidente, sta lavorando, perché è proprio questo il margine che hanno i fondi pensione per in questo periodo qua, per lavorare sulla comunicazione, per spiegare ai lavoratori già iscritti che praticamente spiegargli bene a cosa andranno incontro dal punto di vista fiscale. Ecco. Allora, me l'hai dato questo assist e io me lo prendo al volo, perché in realtà molti fondi pensione, lo scrivi proprio tu su Plus 24 sì. di sabato scorso, stanno cercando di fare delle comunicazioni agli iscritti per aiutarli un po' a ponderare la scelta, no? E chiaramente il suggerimento è anche abbastanza evidente: voi sconsigliate dal prendersi il TFR in busta paga, Tronconi, mi pare anche abbastanza evidente, ma motiviamo un po' questo suggerimento con tutte le implicazioni pratiche che potrebbe avere. Quindi interrompere il versamento al fondo pensione, che cosa potrebbe voler dire nel lungo periodo per un lavoratore? Beh, crea un buco nella determinazione del montante su cui poi si calcolerà la rata di pensione integrativa. Cioè, il problema che noi stiamo fronteggiando con la previdenza integrativa è quello della pensione pubblica, della pensione che arriva dall'INPS, che in un sistema che è passato dal calcolo col retributivo al calcolo col contributivo, e soprattutto durante una fase di crisi con delle carriere lavorative spesso intermittenti, portano a un montante pensionistico, pensione pubblica, che può essere soltanto, mettiamo, il 60% dell'ultima retribuzione. A questo punto è molto importante costruirsi una pensione integrativa, e la forza dei fondi pensioni negoziali è che vengono alimentati anche dal contributo aziendale, e poi godono comunque di una fiscalità. Godevano. godevano di una fiscalità di vantaggio che rimane di vantaggio anche in una situazione attuale, anche con l'inasprimento previsto, perché poi hanno aumentato anche la tassazione sulla rivalutazione del TFR che è lasciato in azienda, che adesso è diventato del 17%, e poi non dimentichiamo la grossa questione che si è discussa e poi dopo non si è risolta: il TFR in busta paga viene pagata al netto dell'aliquota normale e non dell'aliquota di vantaggio che si applica alla liquidazione del TFR a fine carriera, e quindi c'è anche un vantaggio immediato per l'erario, perché chi chiederà il TFR immediatamente pagherà anche delle imposte elevate. Allora, io avrei una domandina, scusate. Sì, allora, sì. Mi spiegate di che importi stiamo parlando, esatto, poi alla fine? Allora, e la domanda bis, per prendere questa decisione abbiamo bisogno di avere delle informazioni. Quali sono le informazioni che mi posso in qualche modo recuperare? Quali sono le domande da fare per scegliere? Mi sembra che un po' l'informazione sia ancora un po' fumosa, un po' per addetti ai lavori forse. Vado io? Sì, vai, Vitaliano. Allora, sul sito di MEFOP, www.mefop.it, che è una società con partecipazione del Ministero dell'Economia, sì, quindi stiamo parlando di una struttura pubblica, ci sono proprio dei casi pratici, delle simulazioni. Allora, io ne faccio uno, che è quello di un reddito lordo iniziale di 18.000 euro. Parliamo di un lavoratore, diciamo, indistinto. Non abbiamo preso un settore particolare. Però l'importante è lo stipendio, perché più basso è lo stipendio, il salario, più sono incentivato a mettere il TFR in busta paga, no? Parliamo di 18.000 lordi, insomma, l'anno. Poi ci sono una serie di altri indicatori, ma io vado sul discorso che mi chiedeva Nicoletta. TFR netto in busta paga, 14 mensilità, sono 61,88 euro. Questa è la cifra di cui stiamo parlando. Che c'entrerebbe in tasca, c'entrerebbe in portafoglio se do l'ok a questa opzione TFR in busta paga, sì. Se io li metto in azienda con la rivalutazione al 17%, e ovviamente, scusa, faccio un attimo un passo indietro, quel 61,88 ci si arriva anche perché abbiamo una tassazione ordinaria del 27%, l'aliquota marginale che è superiore quindi a quella, anche se aumentata, dei fondi pensione. In azienda, 17%, diceva il presidente Tronconi prima, abbiamo a fine di questo versamento ipotizzato per 5 anni di TFR 5.532 euro in azienda, mentre nel fondo pensione alla fine dei 5 anni 6.096 euro. Quindi conviene sempre il fondo pensione. È preso una linea di investimento speciale, una prudente. Rendimenti, diciamo, netti, sì, abbiamo un tasso di inflazione al 2% anno, crescita reddito dell'1% reale anno, rendimento lordo del fondo pensione del TFR 3% anno. Queste sono le varie ipotesi. E poi ce ne sono tante altre. Però parliamo di 62 euro in busta paga. Al massimo cosa potrà arrivare? 100 euro, insomma, però magari se lo stipendio lordo anno è un po' più alto. È chiaro, Deborah, che non possiamo fare noi dei discorsi per delle persone che guadagnano poco e che magari 60 euro ci pagano due bollette, infatti, può far comodo. Quindi con tutto il rispetto è evidente che stiamo facendo questo ragionamento. Però paghi tanto di fisco sopra, 27%, quando invece sul rendimento dei fondi pensioni paghi il 20%, e qua c'è un discorso da fare sul maturato realizzato. Ma poi soprattutto nel momento in cui tu vai in pensione, ti danno la pensione integrativa, se sei stato tanti anni nel fondo pensione la tassazione scende fino a un minimo del 9%, quindi è proprio poco rispetto a quello che perché viene naturalmente passato. È una sorta di premio fedeltà. Certo, sì. Lo spirito era di incentivare le adesioni naturalmente quando la riforma 10 anni fa è partita, e poi diciamo che questo spirito un po' negli anni si è perso. E poi c'è il discorso dell'anticipazione, che tu già oggi a un fondo pensione dove sei iscritto da più di 8 anni puoi chiedere il 30% di quanto versato senza dover dare nessuna giustificazione. Però diciamo che lì in ogni caso ci sono quelle situazioni di emergenza. Qua emotivamente il fatto di vedersi Tronconi che ne pensa, è chiaro che ha un impatto un'operazione di questo tipo sul lavoratore molto diverso rispetto a quello che si potrebbe scatenare in un lavoratore se ha un'emergenza e ha bisogno di prelevare il 30% del fondo di versamenti già fatti, no? Come dire, si gioca un po' anche nelle condizioni emotive delle persone che sono in difficoltà in questo momento, e purtroppo ce ne sono tante, Tronconi. Ma questa era una delle motivazioni che portava molti lavoratori, soprattutto nelle aziende di piccola dimensione, a tenere il TFR in azienda piuttosto che metterlo nella previdenza integrativa, non perché non si capisca il vantaggio da un punto di vista economico, cioè in termini di maggior vantaggio, perché lo si riconosce, quanto perché nelle aziende di piccola dimensione sì c'è l'articolo 21-20, ma poi il datore di lavoro spesso è disponibile anche a dare delle anticipazioni prima che sia passata i 7 anni di anzianità e magari per percentuali diverse da quelle del codice civile. Quindi diciamo che il lavoratore incredibilmente in questi anni, soprattutto nelle aziende di piccola dimensione, ha creduto di più all'azienda quasi che non ai fondi pensione, però è significativo il dato sulla partecipazione alla previdenza integrativa. Complessivamente in Italia, per quanto riguarda gli occupati nel settore privato, abbiamo un indice di circa il 25% di adesione. Significa... tra fondi chiusi, aperti e tutte le forme di previdenza complementare. Esatto, significa un lavoratore su quattro. È il suo 25%, però lei lo sa che Tronconi che questa percentuale ferma su questi livelli da una decina d'anni. Se va a vedere sopra, per le aziende sopra 50 dipendenti, questa percentuale va quasi al 50%, quindi un lavoratore su due. È vero che questi dati sono fermi da tanto, però è anche da tanto che i governi che si sono succeduti prima del governo Renzi evidentemente hanno sempre condiviso l'idea che bisognava ripartire a fare una grande operazione di comunicazione. Invece in questo momento stiamo facendo un'operazione di comunicazione un po' al contrario. Allora dobbiamo supplire noi, ed ecco che noi nei prossimi mesi, per essere pronti appunto all'appuntamento la di farete, avete già lanciato il bando visto sul sito, ecco. Perché quello che è difficile, parlando di numeri, parlare di numeri, bisogna leggerli i numeri per capire poi dopo dove stanno effettivamente le convenienze. Quello che è importante, l'ha detto anche il collega Vitaliano, siccome è stato innalzato verso l'alto tutta la pressione fiscale, tutto sommato il vantaggio che c'era prima dal punto di vista fiscale c'è ancora oggi. E quindi la soluzione della previdenza integrativa per chi è disponibile a costruirsi un secondo pilastro rimane quella più conveniente. Chi è convinto della previdenza complementare, Tronconi, il fondo pensione se lo fa. Chi invece ha paura che la legge cambi continuamente, che oggi ti fai lo strumento di previdenza complementare, domani arriva il governo che ha bisogno e dice sai che c'è, te lo ritasso diversamente, te lo tasso di più, tutto quello che è maturato, quello che tu prenderai alla fine di questo percorso, te lo tasso diversamente rispetto a quanto ti ho promesso quando l'hai sottoscritto, lì è il grosso problema, non è proprio come dire l'apparato fiscale. Sì, ma è lo stesso Stato che poi gestisce anche la pensione pubblica e quindi se non c'è da credere nella pensione privata o privatizzata perché poi c'è la longa manus dello Stato che potrebbe finire in queste tasche per prendersene una parte, la stessa cosa vale per lì. Quello che poi bisognerà gestire poi tra 20-30 anni saranno una marea di pensionati indigenti e sarà sempre lo Stato a dover gestire. Saranno quindi quelli che avranno intanto nel frattempo in busta paga preso magari questa quotina di TFR che magari non è rilevante nel lungo periodo, come dire, un mancato versamento di 3 anni, però in realtà lo è. Sì. Poi parliamo della busta arancione, perché in questa campagna di informazione, Tronconi, vi dovete impegnare anche a dire al governo, senti un po', fai un po' sapere ai tuoi cittadini quanto prenderanno tra qualche anno, però ci torniamo perché sennò Pietro da Roma, poveretto, sta lì appeso da un sacco di tempo. Buongiorno Pietro, benvenuto. Buongiorno a lei. Buongiorno. Ho aspettato una settimana, però insomma ho ascoltato. Adesso, ho aspettato 10 minuti, dai Pietro. Dai Pietro, se passa da Milano la invitiamo a bere un caffè. Via, ci dica. Ah, dai, mi tocca via l'elicottero. Dai. io so che Roma. Ci dica. Allora, niente, io ho sentito un po' le domande, le risposte, eccetera. Per quanto riguarda il suo TFR, il TFR in busta sarebbe comodo per quanto riguarda ad una parte, dall'altra no, perché oggi andiamo all'ospedale e paghiamo tutto, i ticket si paga, le visite si pagano, a questo punto a che serve accumulare il TFR e metterlo via? Tanto vale faccio dare i soldi, tanto dobbiamo andare all'ospedale e paghiamo, siamo qua a fine dell'America qua Vabbè Pietro, è un po' quasi adesso magari forzando un po' il concetto, il principio degli 80 euro in busta paga che certamente hanno fatto comodo, noi abbiamo anche apprezzato molto l'iniziativa con Nicoletta, l'abbiamo detto tante volte, però abbiamo contestualmente anche visto come questi soldini siano andati a coprire tante toppe, inasprimento fiscale da altre parti, a tassazione sulla casa che anche lì è un altro grande terreno di incertezza perché oggi sai quello che paghi, domani non lo sai, insomma arrivano e volano. Da questa telefonata si capisce dice da Franti Pietro, dell'assenza di percezione di quello che avverrà quando si andrà in pensione col contributivo. Perciò è importante quello che dicevi tu, la busta arancione. Con la busta arancione Pietro saprà quello che avrà di pensione pubblica. Mm. Quando lo saprà, a quel punto si dirà: a questo forse mi conviene fare un fondo di pensione. Ma se non lo saprà e non avrà mai questa percezione di rischio di andare in pensione con pochi soldi, non si farà mai una previdenza complementare. Diciamo che Mastra Pasqua era pronto, ma non gliel'hanno mai fatta mandare. Treu, commissario straordinario dell'INPS fino a poche settimane fa, era pronto in via sperimentale a mandarla in qualche ragione, non gliel'hanno permesso perché poi è arrivato questa presidenza ufficiale. Tito Boeri, siamo nelle sue mani, professore, veda un po' lei se il suo mandato si vuole caratterizzare anche per questa grande azione di responsabilità verso i cittadini. Enzo da Mantova, deve essere telegrafico, buongiorno. Buongiorno, io sono un artigiano, ho 5 dipendenti e da qualche anno il TFR lo consegniamo insieme alla tredicesima. Sì. In questo modo loro hanno stipendio, tredicesima e TFR, si riescono a fare quelle spese e quei problemi che non si riescono ad affrontare durante l'anno. E insomma, lei ha detto ai suoi lavoratori: io ve lo do fin dall'inizio, quindi non c'è stato anche tutto questo giochetto di dire un po' versiamo, non versiamo, operazione trasparente sin dall'inizio. Tronconi, che ne pensa? Molti microimprenditori hanno fatto questa scelta, voi ne siete nella piena consapevolezza? Sì, ma sono valutazioni che hanno una loro logica, che però dimenticano un po' quello che poi è il problema del futuro. Non dimentichiamo che noi dobbiamo fronteggiare uno dei motivi che poi ha messo in crisi il welfare state, cioè il fatto che la popolazione vive più a lungo e quindi abbiamo una quota parte di popolazione inattiva sempre più grande che poi deve a un certo punto godere del trasferimento di risorse della parte più piccola attiva. Allora il porsi comunque il problema di come vivrò e come consumerò, come finanzierò i miei consumi quando non sarò più attivo rimane un problema importante. Certo. Comunque insomma concetti di carattere generale che intanto oggi ci hanno dato l'opportunità di raccontare come l'operazione TFR in busta paga stia partendo. Io vi riconvoco fra 3 o 4 settimane, se a marzo le aziende ci manderanno questa comunicazione ci chiederanno cosa vuoi fare e noi dobbiamo avere tutte le informazioni, come chiedeva giustamente prima Nicoletta, per fare una scelta ponderata e consapevole. Grazie a Michele Tronconi, Vitaliano D'Angerio. Grazie a voi. Torniamo domani? Ma io direi di sì, dai, alle 11 magari. Vabbè, che dici? Ok, prima caffè però.